La penna è davvero più potente della spada. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Non gioco più, me ne vado, non gioco più. Io prendo quel che trovo e lascio quel che prendo dietro me. A mio figlio Stefano Perotti, per il regalo di laurea, ha regalato questo orologio. Lei e io avrebbe detto a suo figlio che riceve un regalo alla sua laurea da un amico, da una famiglia conoscente di questo genere, devi restituirlo? Io non me la sono sentita di dire a mio figlio restituiscigli quell'orologio. Forse ho sbagliato, non lo so. Parli e non ti sento, io cambio e chi non cambia resta là. Però, mi perdoni, ma le sembra il caso di essere, che mia moglie sia processata per 441 euro di un viaggio? Ti assicuro, se ti faccio male. Parlo con Ercole in calza e gli dico, mio figlio si è appena laureato, è a Roma a trovarmi, e gli dico, ti faccio parlare con Ercole in calza, che è uno laureato in ingegneria, non per chiedergli di assumerlo, ma per dirgli, vai a parlare con lui, senti come va il mondo, capisci le cose. Ho comunicato loro, sia al Presidente del Consiglio che al Presidente della Repubblica, che domani alla conclusione di quell'informativa rassegnerò le mie dimissioni. Non gioco più, davvero, la vita è un letto spento. È così, non gioca più, se ne va. Lupi è andato alla terza camera dell'Italia, è andato in Parlamento, cioè a porta, si è accomodato lì e ha annunciato le dimissioni. Questo Rolex, leggo dalle intercettazioni che sono pubblicate ancora dai giornali, a un certo punto lui chiama Perotti, quello che ha regalato un Rolex da 10.320 euro al figlio, lo chiama e gli dice grazie per il pensiero, non dovevi, e Perotti, ma è una cosa di poco conto, è un pensiero. Voi dovete sapere, tra l'altro, che Stefano Bartezzaghi su Repubblica è uno straordinario. Bartezzaghi, no? Quello della dinastia dei Cruciverba, tanto per capire, no? Della settimana enigmistica. Ebbene, fa anagrammi. Anagrammi. L'anagramma di oggi è questo: l'ex ministro Lupi mi spunti il Rolex. È l'anagramma, non male. Allora, cari ascoltatori, sono le 6:32 minuti, questo è 24 mattino, eh? Secondo voi ha fatto bene a dimettersi il ministro Lupi? 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi. Tra l'altro c'è un'altra intercettazione, a un certo punto sapete che ci sono anche dei vestiti, no? Che vengono fatti per il figlio di Lupi, Luca Lupi, ha dei vestiti dal sarto, e a un certo punto Lupi chiama Perotti e si lamenta, no, Cavallo, l'altro arrestato, dice ma questo sarto fa schifo, cazzo! Io prendo quel che trovo e lascio quel che prendo dietro me. Allora, alle 6:33 minuti succede una cosa incredibile qui a Radio 24. Devo annunciare in maniera pubblica a tutti, l'annuncio magari a Vincino che ci sta ascoltando, l'annuncio a Chicco Testa che ci sta ascoltando, che sono i nostri ospiti del Parlamento. Non vanno i telefoni di Radio 24. Allora, non vanno i telefoni. Se non vanno i telefoni, io faccio un po' fatica a chiamare gli ospiti. Se volete, Vincino, prova a urlare! Prova a urlare da casa, che magari ti sento! Prova a urlare! Non lo so, lo chiamo dal cellulare. Adesso lo chiamiamo dal cellulare. Facciamo questa cosa, eh? Allora, aspetta. Vediamo un po'. Sto cercando il numero di Vincino. Lo chiamo dal cellulare e lo metto in viva voce. Cosa devo fare? Eccolo qua, Vincino, Vincenzo Gallo. Perfetto. Vediamo. Facciamo questa cosa. Che dobbiamo fare? Pronto? È occupato. Vincino, però metti giù, insomma, è occupato. Ma come è occupato? Vediamo un po', riproviamo a chiamare Vincino, lo mettiamo in viva voce. Eccolo qua. Tentiamo questa cosa da radio del 1971. Niente, è occupato. Vincino, metti giù il telefono. Vabbè, è occupato. Niente, sono le 6:34 minuti. Intanto fatemi salutare Lorenzo Nespoli in redazione. Fatemi salutare anche Peter Bescapè, l'alpino, in regia. Questa è la settimana numero 98 che va a chiudersi qui, ovviamente la settimana per l'abolizione delle province e la riforma elettorale, lo sapete. Dai, apriamo il Parlamento, vediamo se Vincino risponde, se no ci inventiamo che per mezz'ora dobbiamo adesso parlare noi. Vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. Parlamento, forza, forza, gente. Niente, Vincino occupato. Vanno i telefoni? È entrato Dario Ceccarelli tutto di corsa a dire vanno i telefoni? No, mi fa col labiale, come se io potessi capire il labiale di Dario Ceccarelli, no? Mi fa dei gesti dicendo è così. Non si riescono ad avere le chiamate. Benissimo, allora dite a Vincino però di mettere giù il telefono, che magari lo chiamiamo da qui, facciamo questa roba viva voce. Guarda che questa, ragazzi, è una radio fantastica. Se viene è una radio degli anni 60. Vincino, eccolo qua, suona. È Vincino? Vincino? Mi senti? Ecco, guarda, succede una cosa molto particolare. Siamo in diretta, i telefoni di Radio 24 non vanno, quindi non riusciamo a chiamarti. Ti chiamo col mio telefonino, ti metto in viva voce, attaccato al microfono, e di quello che vuoi. Va bene. Ma come va bene? Devi urlare di più però, Vincino, perché... Sì, sveglio tutta la casa qua, sono due figlie, una moglie, due cani che mi ammazzano. Va bene, allora adesso il trucco è questo, voi dovete immaginarmi, cari ascoltatori, sono io con il telefonino in mano, in viva voce il telefonino, e metto il telefonino, quando tocca parlare a Vincino, attaccato al microfono, in modo che tu, Vincino, possa urlare e dire quello che vuoi. Allora, iniziamo così, caro Vincino. Lupi si è dimesso, di quello che vuoi al 3, 1, 2, 3. Non funziona più niente, infatti. Ecco qua, con incalzo in galera, manco i telefoni, non funziona niente, nei tutti i lavori, un disastro pazzesco. Vabbè. Si è capito, cari ascoltatori? Adesso aspetta, Vincino, devo fare questo esperimento, devo capire dai miei ascoltatori se si è capito quello che ha detto Vincino. Allora voi mi mandate un messaggio al 349-238-6666, neanche nelle radio pirata del 1961 succedevano queste cose, a dirmi se effettivamente avete capito quello che ha detto Vincino. Adesso dobbiamo aspettare un attimo, che ci sono le persone che mandano gli sms per farci capire se avete capito qualcosa. Intanto, Vincino, tu un Rolex qualcuno te l'ha mai regalato? Ma che, mai, non ho mai avuto un Rolex in vita mia. C'è uno scarso One Watch del cavolo da 50 euro di 8 anni fa. Ma come, neanche... tu no. Niente, vabbè. Però scusa, adesso questo secondo me si è capito un po' meglio. Lorenzo Nespoli, puoi anche venire a farmi una foto? Perché questa la mettiamo veramente. Oggi facciamo radio così, che dobbiamo fare? Comunque, Lupi ha fatto bene a dimettersi? No, secondo te? No, Lupi ha fatto bene. Non dovevo mai farlo visto, perché è cretino totale, va bene? Allora, no, come un cretino? Perché? Ma perché un cretino? Ma è totale, come uno che non sa che la Pedemontana montana è una strada e non è una ferrovia, uno che non sa nulla di nulla, dove lo metti? Dove lo metti metti fa sempre danno, no? Vabbè, poi peraltro c'è un partito che non è un partito, che è un nulla, l'NCD, che è un disastro, c'è l'unico rimasto è il Kazako, l'unico, cioè, non il Kazako, che il Kazako è Angelino Alfano, il Kazako. Angelino Alfano, il Kazako era l'unico che doveva essere proprio sirurato via totale, no? È così. Io se fossi lei ci scapperei di corsa, guarda, perché come dire, chi sei, che cosa fai, cioè, si suicidano questi qua, no? No, vabbè. Comunque aspetta, intanto Vincino, devo dire che l'esperimento sta funzionando, ricordiamo che non vanno i telefoni di Radio 24, noi, io ho chiamato Vincino sul cellulare, l'ho messo in viva voce, si sente male, cari ascoltatori, abbiate pazienza, si sente male, però si sente, ci stiamo salvando, cercate di capirmi, e quindi ringrazio tutti quelli che mi scrivono, sei grande, si sente, dai, va bene, va abbastanza bene, devi urlare un po' di più, Vincino. Stupendo, vabbè, già sono una figlia sveglia che già si affaccia alla porta. Vabbè. Ce la vuoi passare? No, se rimani là, non avvicinare, che se non scatta l'incantesimo. Cioè, tutti i 20 deputati e 30 senatori si stanno suicidando. No. Comunque, attenzione. Si buttano su una macchina, si ammazzano di qua di là, si buttano al ministero, perché la loro vita è finita. Ma chi sono quelli dell'NCD? Dell'NCD? Non sono nulla, niente. Hanno senso, come dire. Come non hanno senso? Ma cosa stai dicendo? Pare che adesso vogliano mettere attenzione. Aspetta. Che se... carne da cannone, no? Renzi se ne mangia 3 a colazione, stamattina se ne mangiati 5. Questo Renzi a colazione. Però lui dovrebbe stare attento a Cantone. Ecco, infatti, fermati. Ci sono i nomi dei sostituti. Intanto, Lorenzo Nespoli, ti prego, vieni qui a fare una foto che mettiamo subito su Twitter per capire oggi come sono i collegamenti radiofonici. Prima, quando parla Vincino, mi fai una foto. Allora, la domanda è questa: ci sono i sostituti possibili? Si parla di Luca Lotti, Deborah Serracchiani, 1, 2, 3, 4, ma uno soprattutto, Cantone è quello là che ammazzerà Renzi a poco, se lo sta mangiando pure proprio, l'hai visto vedere ieri sera al servizio pubblico da Santoro, no? Adesso là con quella faccia da volpe, da volpe campana, no? Ma chi è volpe? Ma cosa ti ha fatto Cantone? La bocca da volpe campana, Cantone è quello che, cioè, a me, no, quello che hanno fatto tutti quelli del PD che negli ultimi 15 giorni, quando dicevano ma voi che cosa state facendo sulla corruzione, abbiamo messo Cantone. Ma vaffanculo, ma che cazzo che hai messo Cantone? Ma non ho capito, perché, cioè, uno mette uno da una parte, ha risolto il problema della corruzione, che noi siamo 60 milioni di corrotti e tu con solo Cantone ci vuoi fregare? Adesso però Vincino, fermati, adesso sei lontano dal microfono, sto parlando io, sei lontano dal microfono, il telefono è lontano dal microfono, quindi non ti si sente. Tra l'altro qualcuno mi fa notare che forse è colpa dell'eclissi di sole di oggi, questa dei telefoni, cioè... Forse non abbiamo pagato la bolletta, non lo so. Alle 9 però è l'eclissi, eh? Da voi in anticipo, da noi ci hanno detto che alle 9. Eh sì, anche da noi alle 9, adesso in anticipo, Milano e Roma, l'eclissi di sole, cioè, non è? Tutti, che ne so, quelli dell'NCD sì, per loro l'eclissi è da cioè, l'NCD è già in eclissi di sole. Però Vincino, io ti chiedo questo, tu che sei un garantista, tu che sei stato in carcere 2 volte e capisci, perché hai fatto una vignetta, ti hanno rimproverato qualcuno qualche giorno fa, in cui Renzi dava, cos'è, il vestitino da carcerato a lupi? Perché era molto divertente. Era divertente, ti piace, il carcere degli altri. Oppure quindi del Fatto, come dire, questa è una delle poche volte che il Fatto e il Foglio si sono trovati d'accordo. Il Foglio l'ha messo in prima e il Fatto è rimasto molto contento. Dice, l'unico che ha parlato nel Foglio è... Eccoci qua. Va bene, allora sentiamo Giovanardi. Hai presente Giovanardi dell'NCD? Secondo te si sta... Ho detto che quello è eclissato da tanti anni, guarda, sulla droga, su tutte le cose del sesso. È eclissato da tanti anni, vabbè. Pensa un po', io non posso, pensate un po' alla situazione, non posso neanche spegnere per un attimo il microfono per salutare e per dire qualcosa a Peter Bescapè, perché se io spengo il microfono non si sente più Vincino, perché la voce di Vincino, vi ricordo, ricordo oggi, passa dal mio cellulare in viva voce attraverso il microfono di Radio 24. I telefoni non vanno e quindi l'unica possibilità è questa. Allora, Giovanardi. Se Renzi dice una parola, è chiaro che Lupi si deve dimettere. Però io dico, si dimetteranno anche i 3 sottosegretari o 4 che hanno gli avvisi di garanzia e hanno pendenze giudiziarie. Abbiamo sottosegretari con avvisi di garanzia, abbiamo uno sospeso come De Luca, allora applichiamo una regola, cioè De Luca. Perché De Luca va bene e Lupi no, caro Vincino? Ma per una mano De Luca l'ho conosciuto io, no? E che c'entra? Anche noi l'abbiamo invitato. Lui a Salerno mi ha portato nella stanza, nel salone dove ci fu il primo governo italiano là, assolutamente, perché il primo governo italiano dopo il 43 si riunì a Salerno, dove se ne fu frega. La svolta, dove c'era Togliatti, no? De Luca è uno che a Salerno lo amano tutti follemente, Ho capito, allora se è indagato va bene, può... Lupi solo nella parrocchia della Cellelle non lo so, vabbè, Luca, vabbè, Giovanardi fa notare, De Luca è indagato. De Luca è un mito. Come Di Miro Crisafulli, la perenna. No? Di Miro Crisafulli, per chi non lo conoscesse, è stato indagato per il PD a Enna. Aspetta, che ti avevo allontanato dal microfono, rimetto il cellulare vicino. Rimetti il cellulare, ecco. Io pure indagato, infatti, no, tu sei stato in carcere due volte, ma come vedi sei qui. Era militare, carcere normale e carcere militare. Carcere sì, normale una volta e carcere carcere militare la seconda volta. Aspetta che adesso ti allontano dal microfono, devo leggere due messaggi. Uno mi dice sei ridotto peggio del Milan. Effettivamente sono ridotto un po' peggio del Milan, però guardate che ho avuto questa intuizione molto molto buona, cioè chiamare Vincino sul viva voce, metterlo in viva voce, avvicinare il viva voce al microfono e più o meno funziona, più o meno. Però ecco, un'altra questione invece non l'ho capita. Tu che stai al foglio, caro Vincino, perché Giuliano Ferrara deve sempre fare il bastian contrario da 3 giorni che dice io sto con Incalza ci sono i treni veloci, con Incalza si va da Milano a Roma in 3 ore, Incalza mi piace. Come anche tu. I treni veloci, Roma Milano, soprattutto perché poi sono comodi, perché lui soffriva moltissimo in aereo all'Italia con quei sedili, soprattutto quei piccoli, lui stava malissimo. Nel treno veloce non entrava in aereo, proprio era una sofferenza. Poi insomma 2 ore prima arrivare a Fiumicino, poi quella cosa che sale, che poi a volte cade, insomma, invece il treno non cade, sbatte in caso, sbatte. Comunque Ferrara è per Incalza perché ha fatto i treni veloci mentre sugli aerei lui non entrava, ecco, fisicamente proprio Giuliano Ferrara, e quindi questo è il problema. Fare le cose, su questo io sono d'accordo con lui, cioè meglio una cosa fatta che un sospettato. Ho capito, ma una cosa fatta, ma se deve essere fatta, lo stabilirà la magistratura con le tangenti, è fatta male, no? Non si può fare normale? In Italia non si può fare normale. In Italia si può fare normale, d'accordo, però all'estero non puoi vendere niente in Zambia, in Iran, in Libia all'epoca, in Kosovo, senza tangente, non è niente. Niente. Non fa nulla. Niente. In Cina, che fa in Cina? Perché è tutto tangentato dal mondo della Cina, no? In America, la lobby, la cosa, è legale, quindi... In Italia ci sono le tangenti. Io non capisco, aspetta che ti allontano adesso dal microfono, stati zitto. Non ho capito chi mi scrive buon onomastico, ma per caso è Vincenzo oggi, San Vincenzo? Non lo sai, no, perché Sant'Alessandro è il 26 agosto e io non lo so chi mi ha scritto buon onomastico. Se non è San Vincenzo, manco Sant'Alessandro. Vado a prendere il calendario, perdo la... da cosa, non l'ho mai frequentato. No, io lo so che è il 26 agosto. Comunque, aspetta Vincino, siamo con Vincino, collegati in maniera funambolica, oserei dire. I telefoni di Radio 24 non vanno e quindi per chiamare e mettere in onda Vincino l'ho chiamato sul cellulare, l'ho messo in viva voce, avvicino il viva voce al microfono, per questo sentirete male, ma non rompete i coglioni, è già tanto così, cari ascoltatori, è già tanto così. Però c'è la pubblicità, il traffico no, non possiamo chiamarlo, c'è però la pubblicità e la segreteria telefonica, poi rientriamo in qualche modo con Vincino. 24 mattino. Dalle radici di Berlusconi un bel Renzi che con un po' di limone, una scorza di patata e una buccia di carota ti si piantan lì sullo stomaco. E allora, per ripristinare la digestione, Alessandro Milan. Milan, ma perché tutti quanti ce l'avete con lupi, lupi, lupi? Chi è che non sistemerebbe il figlio? Ha fatto bene. È solo l'invidia, perché non stanno a posto loro. Tanto la corruzione è sempre esistita e sempre esisterà. Ciao Ale, scusa, non ti chiamo Lino perché mi fa tanto top model scandinava, tipo quella che, di cui parla sempre Mughini. Senti, questo binomio Brescia-Lussana è straordinario. Uè Milan, buongiorno, lo sapevi che i politici hanno sostituito l'ATAC con il acciaio? Le poltrone sono d'acciaio inox, ti siedi e non ti alzi più, evviva l'Italia! Questa è la nostra segreteria telefonica. Allora succede questo, ho messo giù con Vincino perché abbiamo al telefono Chicco Testa. Buongiorno Chicco, come stai? Buongiorno, bene. Guarda, bene. Io è successo un disastro, io ti chiedo scusa, non no, vanno, figurati. Te l'hanno spiegato, non vanno i telefoni, fino a un secondo fa non andavano i telefoni, quindi io avevo chiamato Vincino, l'ho messo in viva voce e avvicinavo il viva voce al microfono, neanche nelle radio del 1971 succede. È la crisi dell'informazione. La crisi, adesso un telefono va, ne approfittiamo. Abbiamo Chicco Testa, di quello che vuoi a questo punto. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, una bella giornata. A Roma mi sembra che c'è il sole. Sì, c'è un ministro in meno. C'è un ministro in meno, insomma, il paese va avanti. Va avanti. Ma tu allora, ecco, abbiamo anche Vincino al telefono adesso. Eccoci in una linea telefonica. Vanno i telefoni, questa è una notizia a Radio 24. Contento la Telecom. Sì, esatto. Abbiamo 4 minuti per la verità, per chiudere. Che dovevo dire? Chicco Testa, allora, tu che sei vicino al potere, tu che no, grappoli di Rolex avrai. No. No, vabbè. No, ha fatto bene a dimettersi. Normalmente metto uno sfoggio. Sì, ha fatto bene, mi pare anche che si sia dimesso con delle motivazioni corrette, evitare questo di restare probabilmente per settimane al centro di pubblicazioni di intercettazioni e di cose varie. E perché anche perché oggettivamente da tutto questo emerge, non dico una sua responsabilità penale che nemmeno i magistrati hanno trovato, però insomma questa contiguità con il potere, con certe pratiche, insomma, che gli italiani mi pare non sopportano più. Sì, effettivamente è un po' così. Però Vincino ci sta dicendo che invece no, non era. Vincino, tieni il punto, che devi fare? Non si doveva dimettere, però. Vincino, adesso che sei al telefono. No, aspetta, detto che si doveva dimettere dall'inizio perché non ne capiva niente. Allora, ecco, sì, no, dice che lei niente di niente, no. Ecco, si doveva solo spiegare in calza le cose e quindi scusami. Che l'NCD sono, però voglio dire, è stata una gran mossa di Renzi, vorrei chiedere a Chicco Testa, oppure questo silenzio, pare che gli abbia detto a Lupi, apprezza il fatto che io sono stato in silenzio, e pare che Lupi abbia commentato con Alfano, è proprio un democristiano, fatto e finito. Beh, in effetti Renzi credo che alla fine, diciamo, sia soddisfatto di questa soluzione. Certo, preferiva non avere questo problema, ovviamente, immagino, no? Però un passaggio parlamentare sarebbe stato ancora più difficile, perché cosa avrebbe fatto il PD? diventava una situazione molto complicata. Come sappiamo, Renzi non ama essere popolare e ahimè in questo momento una difesa di Lupi sarebbe apparsa come una posizione poco popolare, quindi diciamo sì. che Lupi con questo suo gesto ha dato una mano anche a Renzi. Questo sì. E adesso l'intercettazione di Incalza con Renzi è dell'anno scorso di gennaio, quando c'era ancora il governo Letta. Ho capito, ma è uscita adesso. Per un anno e mezzo si sono tenuti questa intercettazione, la così. Appena arriva il momento, via. Che in caso del Rolex si può proprio dire giustizia. È una stronzata in mano, cioè praticamente Renzi. Il guaio di Renzi è che si è tenuto questi quattro dell'NCD che non servono a niente. Sì, a niente. Vabbè, questo l'hai già detto. Allora si può dire. Ma cosa non l'aveva sentito? Ciao, ieri sera Renzi era molto molto molto felice, ma felice. Non per il caso Lupi, ma vediamo, dovresti indovinare perché mette Cantone, no? Per la Fiorentina, Fiorentina. Io dico meno male che c'è l'Inter. Mi tiro su così. Qua purtroppo devo chiudere. Io chiedo scusa a Chicco Testa, ti abbiamo fatto svegliare alle 6:30 e poi i telefoni non vanno. Chicco, si sveglia alle 5 del mattino. Chicco si sveglia alle 5. Vabbè. Vincino, devo chiudere, solo dimmi un po'. Stavolta aveva ragione quella del Movimento 5 Stelle, allora. No. Perché? Ma che Ma perché? Perché, Vincino? Non hanno mai ragione. Mai. Assolutamente no. Perché non ho ragione? Perché vuoi salutare Di Maio? Hanno ragione solo per il motivo per cui gli orologi fermi due volte al giorno segnano l'ora. Anche i Rolex rotti. Vabbè. Vincino, saluta Di Maio che ti vuole bene. Saluto Andreotti che sta là, lo guardo. Il busto di Andreotti. Tranquillo, è più sereno di Di Maio. Va bene, dai, abbiamo iniziato questo venerdì così in maniera un po'. Che sudata. Ecco, piange il telefono. Bravi. Adesso arrivano tutti e i telefoni vanno. Tutti sereni, tutti tranquilli. Tutti. C'è stato qualche problema al telefono? Andiamo al GR, va. No, mi ascolterà, piange il telefono. Perché non hai pietà? Ponderà. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qua, sono le 7:20 minuti con un po' di consueto ritardo. Eccoci, ben ritrovati da Alessandro Milan. Si chiude la 98esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province. I telefoni della regia vanno? No. Alcuni sì, alcuni no. Va bene, ma è venerdì. È venerdì e c'è l'eclissi di sole. State tranquilli, non è che vi guardate tutti oggi il sole così, che bella l'eclissi di sole, e poi vi ritrovate ciechi. State attenti e mi raccomando. Va bene, allora oggi parleremo di Lupi che si è dimesso, Lupi che parlava del lavoro del figlio, ma non è che così fanno tutti un po' gli italiani? Popolo di raccomandati, di raccomandatori. Ne parleremo con Laura Castelli del Movimento 5 Stelle, avremo Piero Stellino, avremo Clemente Mastella. Parleremo di questo dalle 8:15, ora i giornali. In questo venerdì 20 marzo i titoli, intanto il Sole 24 Ore apre sull'effetto Fed sui cambi, riparte il super dollaro, mentre le due notizie che rimangono principali sui giornali sono l'ISIS, l'attacco in Tunisia e appunto la vicenda di Lupi. L'ISIS minaccia, è solo l'inizio, questo è il titolo di prima pagina del Corriere della Sera, mentre per Repubblica Lupi l'addio in TV, ma il Premier non mi ha difeso.

e il fatto che si riescano ancora a pagare è perché ci sono o la finanza creativa, si legasi, si gratta al fondo del barile, oppure perché la liquidità girata dalla BCE alle banche greche per sottoscrivere i titoli di Stato in scadenza e pagare gli interessi sul debito vengono utilizzati appunto per pagare stipendi e pensioni. Ma, racconta Ettore Livini su Repubblica, o si trovano 3 miliardi subito o la Grecia rischia davvero il default, cioè rischia di non pagare stipendi pubblici e pensioni, e questo sappiamo è il primo passo per la, come dire, anche rivolta civile, se vogliamo. A proposito di esteri, sapete che in Francia c'è un umorista, ecco, definirlo umorista dopo quello che ha detto e che sto per dire, mi scuso con gli ascoltatori, ma è andato di fatto, è un po' strano. Comunque, umorista, così è definito, tale Nicolas Bedeau, che in un'intervista ha definito Marine Le Pen una baldracca fascista. Per questo è stato però assolto dal reato di diffamazione. Cioè, ovviamente Marine Le Pen l'ha chiesto di una querela, l'ha querelato per diffamazione, baldracca fascista, insultare la Le Pen per i giudici si può. Sul Libero, Mauro Zanon, da mercoledì in Francia ufficialmente permesso e senza alcun rischio di incappare in guai penali trattare Marine Le Pen come una, e vabbè, insomma, l'abbiamo detto già due volte, baldracca fascisteggiante, per la verità, la traduzione è corretta. Questo succede in Francia. Vabbè, ma siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi va una pagina del Corriere della Sera, ma è più che altro il titolo. Io sono rimasto inchiodato 10 minuti a questo titolo, non riuscivo a uscirne questa mattina. La capacità dei nuovi androidi, i robot, lo studio dei robot di leggere le nostre emozioni, e il titolo è questo: ci serve davvero l'affetto dei robot? Ma chi se ne frega! Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan! Che devozzino via fuoco! Milan, il cagnas randaggio dell'informazione! Se fossi tua moglie, quante botte ti darei! Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Sono le 8:22 minuti, cari ascoltatori, il giorno dell'eclissi di sole, eh? Allora, i telefoni vanno tutti adesso? Sì, vanno tutti, benissimo. Alla fine Lupi ha ceduto ieri dopo le pressioni mediatiche, le pressioni politiche per essere finito, anche se non indagato nelle intercettazioni dell'ultimo racconto delle cricche italiane o presunte tali, e si raccontava di Rolex regalato al figlio, viaggi aerei pagati alla moglie. Lupi è andato nel luogo più istituzionale della Repubblica Italiana, Porta a Porta, per dire: domani alla conclusione di quell'informativa rassegnerò le mie dimissioni. Si dimette. Ha parlato anche del Rolex, il Rolex al figlio. A mio figlio Stefano Perotti, per il regalo di laurea, ha regalato questo orologio. Io non me la sono sentita di dire a mio figlio: restituiscigli quell'orologio. C'è l'intercettazione oggi sui giornali di Lupi che chiama Perotti dopo il regalo del Rolex e dice: grazie, ma non dovevi. E Perotti risponde: ma è un pensiero. C'è poi anche la questione del vestito, comprato dall'imprenditore Cavallo per il figlio di Lupi, e Lupi a un certo punto sbotta perché pare che la giacca sia un po' larga, i pantaloni non vanno bene. A un certo punto prende il telefono e dice: ma questo sarto fa schifo, cazzo! Vabbè, il biglietto aereo anche alla moglie. Le sembra il caso che mia moglie sia processata per 441 euro di un viaggio? E così Lupi lascia oggi. Chi sarà al suo posto? Beh, se Renzi metterà uno dei suoi del PD, sarà l'ennesimo capolavoro politico di Renzi, forse, che si acchiappa un'altra poltrona, ma questo si vedrà da domani. Intanto voglio salutare Laura Castelli, deputato del Movimento 5 Stelle, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti. È contenta? Voi avevate chiesto le dimissioni, sono arrivate, tutto bene allora? Ma è un po' tardi, perché noi le chiedevamo da un po', ma diciamo 48 ore, dai, a meditare. 48 no, ore, sì. già durante il 2014 chiedemmo le sue dimissioni. Diciamo che il suo comportamento rispetto alla sua carica ci ha lasciato parecchio a bocca aperta in questi anni. Vabbè, però queste intercettazioni contenti. Sono uscite adesso, ma perché voi chiedevate le dimissioni di un Lupi non indagato e che peraltro fa un passo indietro? Perché pasticci e indagini su quelli che sono i casi delle opere che lui gestiva ce ne sono state tante nel corso di questo anno. Infatti nell'aprile già trovate alla Camera nostre interrogazioni rispetto alle nomine che lui per esempio ha fatto, rispetto alla gestione appunto di alcuni progetti. Diciamo, siamo contenti, certo non ci possiamo dimenticare che la questione qui non è solo Rolex al figlio di Lupi, ma che c'è ben altro, e soprattutto leggendo l'ordinanza, quello che è venuto fuori, la collusione all'interno del Ministero delle Infrastrutture è moltissima. Sì, questo poi ovviamente la magistratura farà il suo lavoro, farà il suo corso. Ricordiamo che appunto la vicenda racconta di presunti appalti milionari se non miliardari per tutte le grandi opere da parte di Incalza, dirigente dei lavori pubblici, e alcuni imprenditori. Lupi invece non indagato si dimette. Vorrei chiedere anche a Piero Stellino, che saluto, editorialista del giornale Buongiorno Stellino, buongiorno. Se ha fatto bene secondo lei il ministro a fare un passo indietro. Beh, questo bisognerebbe chiederlo a lui. Resta il fatto però che lo spettacolo che dà lo Stato italiano è semplicemente miserevole. C'è un ministro che è costretto a dare dimissioni, indotto a dare dimissioni da una campagna mediatica, che non è accusato di nulla, che non è nemmeno sotto inchiesta, e che si dimette perché c'è una campagna mediatica che pubblica una serie di intercettazioni telefoniche che in qualche modo metterebbero sotto accusa il ministro. Contemporaneamente il ministro non viene né difeso né invitato a dimettersi dal Presidente del Consiglio, sì, il quale fa tutta un'opera sotterranea per indurlo a dimettersi e conquistare il suo ministero. Questo è un caso miserabile di politica all'italiana, miserabile. Questo governo fa ribrezzo. Pare che Lupi e Alfano ieri si siano sentiti, dopo questo racconta Repubblica, dopo aver visto Renzi, e Lupi abbia detto ad Alfano: è proprio un democristiano, perché Renzi ha detto: apprezza il fatto che io non abbia detto nulla pubblicamente. Quindi quello che per lei è una critica, Ostellino, per Renzi è un pregio. Ma è un pregio perché è un signore che lavora sotterraneo, cioè voleva conquistare il ministero di Lupi, ha fatto in modo che Lupi si dimetta per conquistare il ministero, dopodiché quel ministero verrà assegnato ad un uomo di Renzi e tutti saranno felici e contenti. C'è uno spettacolo miserabile. Onorevole Castelli, forse per altri motivi è uno spettacolo miserabile anche per voi, ma non condivide la lettura di Ostellino, che dice si è dimesso pur non essendo indagato di nulla. Certo, c'è questa telefonata, forse la menzogna, qualcuno può dire, del fatto di non aver detto di avere telefonato a Incalza per dire: guarda, ti mando mio figlio, ma Lupi si difende dicendo: non l'ho raccomandato, gli ho segnalato, gli ho mandato mio figlio per chiedergli dei consigli. Castelli. Guardi, che sia miserabile io sono d'accordo, e che nell'ordinanza ci sia solo questa questione non è vero, nel senso che le parti più gravi che riguardano il ministro sono quelli che riguardano alcune opere, la gestione di alcune opere e degli appalti di alcune opere. Cioè, quando tu sei ministro delle infrastrutture e il tuo primo dirigente gestisce come cosa sua gli appalti di tutto il paese, di tutte le opere italiane, perché questo è quello che c'è scritto all'interno dell'ordinanza, allora c'è un problema. Non sei di certo l'uomo migliore per stare dentro il Ministero delle Infrastrutture. Non sono d'accordo sulla questione del processo personale. È vero che la stampa spettacolarizza, e questo voglio dire, noi siamo i primi che ci rimettiamo, no? Lei pensi all'epoca degli scontrini, quanto hanno parlato di noi sugli scontrini, poi quando abbiamo fatto con il Ministero il fondo per il microcredito e ci abbiamo messo i nostri tantissimi soldi, nessuno ne ha detto niente. Quindi l'aspetto della correlazione, sono d'accordo con lei, è un'arma che questo paese dovrebbe smettere di usare. Però ma dietro c'è, ripeto, molto altro. Non possiamo dire che il ministro Lupi si sta dimettendo solo per l'errore di suo figlio. Si sta dimettendo perché ha capito e sa benissimo che la sua responsabilità nella gestione degli appalti tra l'ingegnere è Incalza, di cui se non c'era Incalza non si muove l'appalto, e alcuni imprenditori italiani, alcuni di questi arrestati, è gravissimo. Questo per la verità da 30 anni c'è in calza, però non è, ripetiamolo, non è indagato. Le chiedo questo però, Castelli, perché lei in Parlamento di fronte al Presidente del Consiglio gli ha detto finirete tutti a Poggio Reale, finirete tutti a Rebibbia, finirete tutti in carcere? Guardi, l'aria che si respira è finalmente un'aria nuova, ma non perché ci siamo noi, ma perché ci sono delle grandi indagini che si stanno muovendo, la magistratura si sta muovendo, e quello che sta venendo fuori è che la gente poco riesce a capire, è solo, diciamo, la schiuma della birra, perché sotto c'è molto altro, come quando è uscita Mafia Capitale. Mafia Capitale è l'apice di un sistema. Cioè, verrà fuori qualcosa che coinvolgerà altri ministri, secondo lei? Ma guardi, è quello che la magistratura sta facendo, sta tirando fuori queste grandi storie, che purtroppo sono la verità di questo paese, e hanno fatto arricchire la classe politica e la classe dirigente, e sono tutti coinvolti. Sono, ma tutti, ripeto, se si leggono le carte, quello che viene fuori è che non può non sapere. Allora io le dico, Renzi, io l'ho detto qualche giorno fa, quando era sindaco di Firenze e c'era la questione del TAV di Firenze, noi andammo, chiedemmo a lui un incontro per parlare del TAV. Ma lei vuole dire che un sindaco di Firenze, oggi Presidente del Consiglio, non sa che cos'è il TAV di Firenze e che quando hanno cominciato ad arrestare persone della politica di Firenze, lui non sapeva niente? Qui siamo al non poteva non sapere, no? Sì, ma allora faccia una dichiarazione discostandosi dalla corruzione del TAV di Firenze. Il concetto è, intanto è la presunta corruzione, e poi bisogna invertire. Di Firenze non sono di queste indagini. No, certo, ma sì, però un arresto lo sa che non è un processo, una sentenza. Comunque, io vorrei capire da Ostellino questa cosa: perché sarebbe davvero miserabile questa vicenda? In fondo è opportuno che un ministro mandi suo figlio da una persona, in qualche modo, usare la parola raccomandare, purtroppo in Italia è considerata subito in senso negativo, non è un reato raccomandare, però mandare un figlio da qualcuno per un lavoro. Beh, non mi sembra una cosa poi così grave in un paese dove si vive di raccomandazioni. Questo è vero. Come ha detto il Censis, 4 milioni di italiani lo fanno se possono o se... Però un ministro... Quello che è grave è che avvenga a livello di governo, che avvenga a livello di governo e poi ci sia qualcuno che fa una soffiata alla magistratura per far nascere il caso e costringere un ministro a dimettersi per portargli via il ministero. Cioè, qui siamo al cannibalismo allo stato puro. Per la verità le intercettazioni però sono sul reato, cioè su 2 anni di presunti appalti sulle grandi opere. Poi si sa, quando si inizia a intercettare finisce tutto nel calderone, o no, Ostellino? Sì, quando la politica viene a contatto con i denari è inevitabile che succeda questo, insomma. Con i denari, con le possibilità di far denaro, con possibilità di arricchirsi, insomma, ecco. Quello da evitare, bisognerebbe ricondurre tutto al mercato, cioè che il mercato decida qual è l'appaltatore che più merita di ricevere l'appalto, non che lo decida qualche governo, qualche ministro, che poi tra di loro si cannibalizzano per portarsi via il cappalto. Insomma, mi sembra di capire però per lei che è il fatto del Rolex al figlio, il consigliare a incalza di ti mando mio figlio, l'aereo pagato alla moglie, sono, come le definiamo, Ostellino, qui squiglie, cose minoritarie? Ma no, sono quelle cose che succedono in tutto il mondo, insomma, che fanno parte dei rapporti sociali, insomma, cioè che ci sia qualcuno che paghi, che compri un orologio e lo regali al figlio di un ministro perché si è laureato, non mi sembra poi una cosa così grave. Neanche se questo qualcuno poi è colui che aveva gli appalti del ministero, del ministro, del padre, della persona che prende l'orologio. Beh, se poi la magistratura appura che il ministro ha dato l'appalto a quel signore perché quel signore ha dato un orologio al figlio, allora evidentemente c'è qualche cosa che non va, ma finora questo non è accaduto. Non è accaduto. Onorevole Castelli, capito? Tra poco, tra l'altro, dopo la pubblicità ci raggiungerà anche Clemente Mastella. Ha capito, onorevole Castelli, questa è la posizione di Ostellino. Però no, certo, io volevo ricordare che non è l'unica raccomandazione quella che c'è in questa ordinanza. No, nel senso, in questa ordinanza si parla anche di un'incalza che favorisce l'assunzione di un ex parlamentare, tale Angelo Sanza. Sì. C'è anche, pare anche Sposetti dei DS, emerge oggi dalle carte, che avrebbe segnalato a Burchi un ex deputato, nonché ex sindaco di Imola. Ieri aveva detto: io segnalavo al limite dei giovani volonterosi, disoccupati. Invece si parla di questa segnalazione di un sindaco di Imola, con Burchi che dice: al prossimo anno, al prossimo giro lo mettiamo in qualche società. Però Castelli, la questione è che tutti gli italiani fanno così, il Censis lo dice, non lo dico io, non lo dice Ostellino, 4 milioni di italiani ricorrono alle raccomandazioni. Non crede che la differenza è semplicemente di chi viene beccato e chi no? Ma io ricordo due cose. La prima è che in Europa ci sono dei sistemi, diciamo così, di raccomandazione vigilata, e ci sono dei sistemi tipo LinkedIn, no? Per cui le persone vengono assunte in relazione alla famosa lettera di raccomandazione, che però è ben lontana dal sistema italiano, soprattutto dal sistema che le grandi amministrazioni e la politica ne ha fatto. Vorrei ricordare anche, perché l'altro giorno cercavo e ho trovato, che nell'87 i radicali a un certo punto hanno presentato un emendamento dove proponevano 2 anni di reclusione, no? E allora c'era un articolo che diceva: chissà come sarebbe l'Italia oggi tutti con il reato di raccomandazione. Tutti gli italiani in carcere, tutti gli italiani in carcere. Quindi è un sistema culturale che prevede il fatto che una persona che ha un potere politico possa mettere in una posizione autorevole che non avrebbe mai raggiunto in maniera autonoma il figlio di qualcuno. Possiamo parlare delle raccomandazioni in Rai, cioè questo paese ne ha un sacco di storie e di nomi. Non definiamo proprio la RAI, che sennò sembra che siamo su Radio 24, facciamo una concorrenza, diciamo la raccomandazione in genere. Comunque, insieme a Laura Castelli del Movimento 5 Stelle, a Piero Stellino, editorialista del giornale, tra poco avremo ai nostri microfoni Clemente Mastella, che oggi viene intervistato anche dal Quotidiano Nazionale e dice: la mia regola per la segnalazione è sempre stata questa: mai indicare un cretino, che magari lo metti nell'ospedale, poi ti rompi una gamba, vai a farti curare e hai messo lì un cretino che ti cura. Toglietevi tutto, ma non il mio Alessandro Milan. Allora, alle 8:40 minuti mi scrive nel frattempo Andrea Radic di affariitaliani.it, dire: dai, dillo, che hanno fatto il libro, capite, l'ebook, l'Istanbul con tutta l'ordinanza, Lupi in fabula, no, com'è che si intitola? Sì, Lupi in fabula. Sì, ormai ci sono questi giochi, il manifesto oggi titolava su Lupi un giorno da pecora. Vabbè, è così. Siamo con Laura Castelli, sia del Movimento 5 Stelle, siamo con Piero Ostellino del giornale. Ci ha raggiunto il segretario di Popolari per il Sud, che si rilancia in politica candidandosi alla regione Campania. Non è candidato. Clemente Mastella, buongiorno. Buongiorno. Mastella, oggi lei ha fatto un'intervista al Quotidiano Nazionale a dire: mai raccomandare un cretino, questa è la prima. Mai segnalare, per carità, raccomandare poi sembra una cosa brutta, mai segnalare un cretino, questa è l'unica regola, però si può segnalare, vuol dire. Ma perché nell'altro anglosassone questo non avviene? Tu segnali una persona ritenendo che abbia un bisogno oppure che sia una persona per bene. Ma dov'è? Scusi, no, al telefono non la sento, Mastella. Io sono a Cepalone. Non vanno i telefoni, si sente un po' tutto compresso. Vabbè. Vabbè. Sente meglio per il posto. Ma non lo so. Non lo so, è tutto compresso. Vabbè, però... Non posso farci nulla. Prova a dire, vabbè, comunque, ecco. Dica. No, vada avanti. Segnalare significa non è far acquisire un vantaggio a persone, significa scegli e valuta la persona com'è, se ha capacità o non ha capacità. Ma questo laddove non c'è un concorso, è chiaro. Laddove c'è il concorso non si tratta di segnalare. Laddove invece è libera la partecipazione da qualche parte, allora sì, non nel concorso. Il concorso non si può segnalare. È chiaro, nel concorso no. Esatto. Però le chiedo, Lupi ha fatto bene a dimettersi? Lei che si dimise, tra l'altro, quando sua moglie fu arrestata. Sì, ma guardi, a parte il fatto che le mie vicende sono un po' singolari, perché vedo che in giro, da dopo quello che mi capitò a me, sono forse cose incredibili, e da noi invece non è volato un euro, ma comunque pazienza, insomma. Devo dire, quando il primo ministro non è che ti sta vicino, Io mi sono reso conto che la storia di Lupi era finita quando ho visto che, facendo la sua relazione alla Camera, aveva vicino soltanto Alfano e nessuno del PD, e quindi c'era una forma di isolamento, ma al di là del dato di natura personale, giudiziaria, c'è un dato politico, cioè il PD lo consegnava diciamo alla volontà del Parlamento e quindi non gli dava sostegno. L'isolamento, quindi, l'isolamento politico, esatto, è il segnale. Esatto, l'isolamento non puoi reggere l'isolamento politico, no? Poi diciamo la verità, l'MCD doveva decidere se stare ancora al governo, essendo un partito fortemente ministeriale in questo momento, oppure decidere di uscire al governo, ma siccome la moglie è quella di stare al governo, evidentemente Lupi doveva farsi da parte. Ma quindi secondo lei dovrebbe adesso, per logiche politiche, fuori uno dell'NCD, deve andare a un altro dell'NCD il ministero? Ma io credo che alla fine faranno così, non manderanno uno dell'NCD alle infrastrutture, però certamente troveranno una possibilità, è libero il ministero degli affari regionali dove c'era la Lanzetta, e quindi credo che troveranno una soluzione così, ecco, questo credo, ecco, dal punto di vista politico mi parrebbe così. Ostellino, qui insomma sono equilibri politici che Mastella conosce molto bene, quindi non è che Renzi si accrapperà un'altra poltrona, eh? Gli equilibri politici sono una cosa singolare nel nostro paese, cioè che nei rapporti sociali, nei rapporti interpersonali, ci sia sempre una zona grigia. Se si va a pescare in quella zona grigia per farne delle campagne moralistiche, non se ne uscirà mai. Per il semplice fatto che il moralismo è un'opinione, e quindi ad un'opinione si può opporre un'altra opinione ancora, e così all'infinito. Ed è quello che sta succedendo nei giornali e che sta succedendo a livello politico. Siamo diventati tutti delle anime candide, tutti pronti a indicare il cattivo della questione. Ma se andiamo a vedere nella nostra vita personale, anche nella nostra vita personale ci sono stati dei casi probabilmente grigi che potevano essere sollevati moralisticamente. Cioè dobbiamo realisticamente tenere conto che i rapporti sociali sono rapporti spesse volte inquinati da zone grigie, da zone nelle quali non si capisce dove sta il bene e dove sta il male. Non so se a Laura Castelli fischiano le orecchie per questa, non nel senso che lei abbia delle zone grigie, ma perché voi del Movimento 5 Stelle siete molto abituati, come dire, a dividere così, no? Bene, male, corrotti, non corrotti. Non c'è appunto questa rappresentazione in cui di anime candide non se ne vedono tante in giro, Castelli? Guardi, io sarò giovane e quindi qualcuno potrà dire che anche per questo che non ho scoletti nell'armadio, ma credo che chi fa politica l'anima candida la debba avere, e mi scusi, ma non è un eufemismo, è una frase fatta. Non è possibile mettersi al servizio del cittadino quando non si ha un'anima candida, non è possibile sostenere principi per il quale se si entra in politica allora bisogna sporcarsi le mani, e non è possibile non avere a che fare con delle zone d'ombra. Questo per noi non è ammissibile, non è un criterio. E lo dimostra il fatto che siamo 100 eletti, cercate nelle nostre storie, non troverete uno scheletro nell'armadio. Purtroppo quando un politico viene ricordato più per i propri scandali personali, insomma politici, rispetto alla propria vita politica e rispetto a quello che ha fatto di bene nei confronti di questo paese, allora c'è un problema, e qui in Italia il record è altissimo. Ora non possiamo negare, e questo soprattutto non lo può fare chi lavora con la comunicazione, non possiamo negare che questo paese è diventato la barzelletta dell'Europa, ma anche fuori Europa, perché ha una classe politica che è invischiata in qualunque cosa. Comunione e Liberazione dovrebbe essere la prima a volere gente con le anime candide, ecco, visto la vicinanza al ministro Lupi. Sono punti di vista, ma queste cose vanno dette, perché se smettiamo di dire queste cose, la gente non capisce più dove sta. Lei qua di a dirle. Io però vorrei concludere. Mastella, ma in che cosa ha sbagliato Lupi? Lei dice è stato isolato, per questo doveva rimettersi, ma ha sbagliato qualcosa dal punto di vista politico? Guardi, secondo me, cioè, però devo dire, lo giustifico molto, il fatto che sia sembrato Lupi reticente quando diceva io non ho fatto telefonate per mio figlio, magari in quel momento di pressione mediatica, di pressione di natura paragiudiziaria, come nel suo caso, non giudiziariamente non c'è nulla, lui avrà dimenticato, ma ha fatto una normalissima, diciamo, telefonata. a uno che forse riteneva amico, cosa vuole che le dica? Sì. Cioè, gli ha detto ti mando mio figlio. Esatto, quindi vuol dire, quindi allora il fatto di essere apparso dopo in messa intercettazioni in cui dicevano che aveva telefonato e lui dice non ho mai telefonato, l'ha messo la condizione di un politico che ha detto una cosa non vera, ecco, questo è l'unico dato di natura politica. Poi io non so il resto, le devo dire la verità, cioè non conosco qual è e dove arriva la procura. Io le posso dire che conosco il procuratore capo di Firenze, che è stato mio collaboratore, era direttore, era capo dell'ufficio legislativo, il dottor Crazzo, che è una persona diciamo veramente di caratura eccezionale, una persona per bene, a modo. Però Lupi non è indagato, ricordiamo. Esatto, per cui devo dire non so qual è, quindi tutto questo poi diciamo dove porta non lo non so. Non lo sappiamo, ecco, questo lo scopriremo. Lo scopriremo. Però è vero quello che dice Ostellino, cioè oramai il tribunale si giudica la morale e non il fatto. Assai spesso avviene così, cioè c'è un dato di natura moralistica che tiene alla coscienza delle persone, anziché invece al giudizio popolare. Poi diciamo la verità, la cosa che suona qua è davvero non due pesi, ma 3-4 pesi una misura, perché Renzi non si è regolato con gli altri come si è regolato con Lupi. Questa è la verità. Devo dire all'onorevole Castelli che ha fatto allo stesso modo il suo leader nei confronti di Gino Paoli. Cioè, Gino Paoli preso con le mani nel sacco e posti soldi in vista, ecco. Ognuna famiglia, ognuna famiglia. Il però... l'arte è anche una famiglia, quindi come tale Grillo ha giustificato il suo amico Paoli. Non apriamo la parentesi che magari sarà dedicata a un'altra puntata, anche perché adesso devo salutarvi, devo andare al traffico. Ringrazio Laura Castelli del Movimento 5 Stelle, Piero Stellino del Giornale e Clemente Mastella, segretario dei Popolari per il Sud, che è una lista che si candida in campagna, non Mastella ma la lista alle regionali. Lavoratori, chi non lavora nostri lavoratori che scrivono a 24 mattino e radio24.it le proprie professioni belle che amano, ma io non è che devo dire per forza strane, eh. Certo dovete un po' colpirci con magari professioni che non conosciamo, che vorremmo approfondire, e allora scriveteci. Oggi voglio salutare Mauro Bonomi, possiamo dire anche il cognome, viva Mauro, buongiorno. Buongiorno Alessandro. Che cosa fa Mauro nella vita? Sono restauratore di pianoforti e strumenti antichi a tastiera. Oh, fantastico! I pianoforti e strumenti antichi, però. Esatto. Sono antichi. Sì, di solito facciamo nel nostro laboratorio con il mio collega Marco restauri che riguardano strumenti che vanno dal primo dell'Ottocento fino ai nostri giorni. Ma un lavoro straordinario, è come il restauratore insomma di dipinti dell'epoca, è un qualcosa, esatto. Qualcosa di artistico oltre che di manuale. Abbiamo avuto la fortuna poi di lavorare su strumenti molto importanti che sono stati di proprietà di grandi musicisti del passato come il nostro Gaetano Donizetti o Muzio Clementi, che accidenti. Hanno fatto strumenti. E dove sono questi strumenti in genere? In musei o in case private? Dove? Si trovano nei musei, in palazzi, in collezioni private. Molto spesso questi strumenti sono lasciati, diciamo, non in condizioni ideali, però quando li portiamo nel nostro laboratorio con calma li restauriamo e la grande soddisfazione, emozione poi riportarli all'antico splendore, sia dal punto di vista estetico, ma importante dal punto di vista fonico. Di infatti, cioè si arriva a farli suonare, non so se è un terminologia sbagliata, come no. Un tempo? Esatto, ci vuole molta pazienza, tanta conoscenza e la voglia di imparare in continuazione, perché ci troviamo a lavorare su strumenti che tante volte non hanno delle novità, anche se abbiamo lavorato su tantissimi strumenti, c'è sempre qualcosa da imparare. Qual è lo strumento più difficile da restaurare? Il più classico sarà il pianoforte, vi chiameranno per quello, organi, sì, pianoforte. Noi facciamo pianoforti, strumenti antichi, di conseguenza abbiamo fatto appunto il fortepiano che è appartenuto a Gaetano Donizetti del 1810 e quello è stato una cosa che quando uno mette mani lì è un po' titubante, dice oddio, ma c'è tanto rompo un Donizetti, dice che succede. Esatto, e ci vuole tanto rispetto, conoscenza e pazienza e appunto tantissima voglia di imparare, mettersi sempre in discussione. Però sempre a tastiera, non so, un'antica arpa non vi è mai capitato? No. E per questo mestiere devi specializzarti, è importante avere la conoscenza e sviluppare la conoscenza e lo studio su questi strumenti e far quello e farlo, cercare di farlo bene nel miglior modo possibile. Ma li sai anche suonare? Sì, per fare questo lavoro, per essere restauratore devi essere anche musicista, di conseguenza sia io e il mio collega siamo anche musicisti, quando abbiamo finito il restauro il pianoforte va suonato e devi capire anche le varie esigenze, i cambiamenti che devi fare. Fantastico. Però è un lavoro meraviglioso veramente, c'è la possibilità di vivere nell'arte. Immagino. Mauro, chiudiamo. Benissimo. Hai un sito? Volevo dare eventualmente la nostra indirizzo email, che è info@bonomieruggeripianoforti.it. E poi la diamo meglio se non avete capito. Comunque info@bonomieruggeripianoforti. Vabbè, scrivete a noi 24 mattino e radio 24.it. Posso ringraziare innanzitutto la tua disponibilità e poi anche la tua redazione e la professionalità che hanno. Grazie Mauro, è vero. Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni e il nostro Peter Bescapea. Lunedì